Buonasera e porgo il mio più cordiale benvenuto alla conferenza di questa giornata che inaugura il ciclo delle conferenze filosofiche e della rassegna filmica Un filosofo al cinema, in programma come di consueto per il mese di novembre di quest'anno. Siamo giunti alla 17ª edizione, per la quale, viene da dire, sembra di intravedere la maggiore età di questa attività e di questa proposta per la cittadinanza. E quasi come suggestione, sarà quasi per questa ragione che siamo stati spinti a scegliere come tema per questo ciclo di conferenze quello della felicità, forse un po' in anticipo sulla maggiore età, ma sicuramente di buon auspicio. E quindi, a nome delle sigle che promuovono questa iniziativa, colgo sin da subito l'occasione per ringraziare quanti, e sono numerosi, hanno dimostrato nel tempo la propria simpatia e il proprio apprezzamento. Ringraziamento che quest'anno è doveroso e si estende anche agli enti che con il loro supporto rendono fattibile questa edizione 2014. L'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Padova, l'APS Advertising, la società di gestione Y-40 e la cicchetteria ristorante Baccaro Padovano. Il focus della conferenza di questa sera si concentra sul nesso felicità e società. Ci introdurranno e ci guideranno alla riflessione due tra i più insigni filosofi che abbiamo in Italia, non solo su campo nazionale ma anche internazionale, sono il professor Remo Bodei e il professor Salvatore Natoli. Trattare di felicità è senza dubbio riferirsi ad uno stato interiore che ciascun uomo e ciascuna donna ha fatto esperienza. Un'esperienza sia pur minima, frammentata o forse transitoria. Esperienza tuttavia di cui è arduo fornire una definizione esaustiva e soprattutto condivisa. E di cui risulta ancor più arduo individuare le cause o i fattori. Siamo felici, nel senso che esperiamo momenti più o meno duraturi, più o meno intensi di felicità, ma non è sempre chiaro il loro perché e il loro per come. Con un certo grado di sicurezza possiamo affermare che la felicità ha a che vedere con l'effimero, con un senso di soddisfazione e di allargamento del proprio animo, con la percezione di un surplus di vitalità che va ad aggiungersi alla vita stessa. Tutti questi indici sembrano quasi portare a definire la felicità come un adeguamento tra interno ed esterno, tra dimensione psichica individuale e fattori ambientali. In questo senso, la felicità per una persona è frutto di circostanze. Circostanze per loro natura mutevoli, incerte, sfumate, che rendono la felicità un accadimento della coscienza imponderabile, aleatorio, al limite del casuale, per accedere al quale tanto la costituzione del soggetto, sia essa fisica, psicoemozionale o addirittura etica, quanto la disponibilità di beni, manifestano la propria insufficienza. Per dirla in una battuta, la felicità è per tutti, ma nessuno possiede garanzie di accesso alla felicità. Se la felicità riguarda in prima istanza il singolo individuo, quale allora il rapporto con il vivere associato? Se volete, dando credito a buona parte della riflessione filosofica, si è portati ad asserire che la felicità dell'individuo è riscontrabile solamente all'interno del consorzio umano. E cavalcando intuizioni utilitaristiche, il sistema società sarebbe funzionale a rinvenire, a escogitare e infine implementare quelle condizioni strutturali che consentano agli individui componenti la società stessa di raggiungere livelli di felicità sempre maggiore. Si legga in questa prospettiva quelle posizioni che di questi anni, e di misura anche sempre maggiore, interpretano le società impiegando parametri alternativi rispetto al prodotto interno lordo e più direttamente collegati al benessere e alla felicità, quali ad esempio l'accesso ai servizi sociosanitari, alla conservazione ambientale, all'armonia tra tempi di vita e tempi di lavoro, alle relazioni sociali. Solo per citare un paio di esempi, il Bhutan, che è uno stato tra l'India e la Cina, già dal 1972 valuta il proprio progresso sociale in termini di felicità interna lorda. E da noi in Italia, dal 2011, il progetto BES, Benessere Equo e Solidale, mira a identificare il benessere su scala nazionale, integrando dimensioni sociali ed ambientali. Viene da chiedersi se questi in fondo non siano dei passi, sia pur timidi ed incerti, di una società ormai globalizzata che marcia verso una felicità universale. Felicità e società. Cedo la parola al professor Bodei. Buonasera e grazie per questo invito, grazie a voi per essere qui. Come si potrebbe definire un sentimento come quello della felicità? Approssimativamente come un'esplosione gioiosa dell'animo che si trova momentaneamente in armonia con se stesso e con il mondo, oppure come la realizzazione improvvisa di un desiderio, consapevole o inconsapevole, che si compie all'improvviso, senza, come diceva anche padre Gobbi, un perché. La felicità, ancora c'è una bella definizione della scolastica che è expansio animi ad magna, l'espansione dell'animo alle cose grandi. Cose grandi non significa grandi imprese, ma l'idea di un potenziamento di noi stessi, come un crescere su noi stessi. Quello stesso sentimento che l'anonimo del sublime, un autore che è vissuto o nel primo secolo, nel terzo secolo dopo Cristo, un anonimo, era il modo di caratterizzare il sublime. Tant'è vero che in tedesco das Erhabene, dal verbo erheben, vuol dire sollevarsi, crescere appunto su se stessi. La felicità, appunto perché improvvisa e apparentemente, almeno senza motivo, non può essere perseguita, soprattutto in maniera ossessiva, perché non si ottiene a comando. È come questa paradossale esigenza quando uno dice sì spontaneo, che è contraddittorio, non si può essere spontanei a comando, così come quando uno dorme d'insonnia, non dorme per l'insonnia, dice a se stesso dormi. Sono cose ineseguibili, comandamenti ineseguibili. In questo senso la felicità è una specie di dono, un dono che si riceve senza preparazione, senza una tecnica opportuna, anche se può esistere una stabilizzazione, non della felicità come fattore intensivo, ma come un fattore, diciamo, a bassa intensità che può essere definito come tranquillità dell'animo o serenità, oppure può essere considerato come una forma di predisposizione aleatoria a questi scoppi improvvisi di forza vitale. Che sia improgrammabile la felicità lo mostrano molti esempi tratti dalla vita comune e alcune riflessioni che vengono da campi diversi come la filosofia o la psicanalisi. Kant incontrò una volta uno storico russo, Karamzin, che gli chiese appunto di spiegargli cos'è che renda gli uomini felici. E rispose: date a un uomo tutto ciò che desidera e ciò non di meno, proprio in questo istante, egli sentirà che tutto non è tutto. Cioè, qualsiasi cosa si prepara per la felicità implica uno scarto, un salto rispetto all'idea di avere tutti i beni materiali, simbolici a disposizione. E diceva Chekhov che la felicità è una ricompensa che giunge a chi non l'ha cercata. Allo stesso modo c'è uno scritto di Freud sui tre scrigni, che è una favola sostanzialmente, ma in cui si mostra come il successo molte volte non dia la felicità. L'esempio è quello di una vincita alla lotteria che si è perseguita per anni, e quando questa vincita arriva, lo stato d'animo con cui la si riceve è tutto qui. Quindi la felicità è qualcosa di inesauribile, è qualcosa che non si può limitare alla ricerca dei piaceri in giusta misura, alla temperazione del temperamento degli affetti, al compiere esercizi spirituali come quelli suggeriti da Seneca o più tardi in maniera diversa da Sant'Ignazio. C'è nella felicità qualche cosa che ci può avvicinare, ci può disporre, ma manca la scintilla che la fa sorgere. E tuttavia il problema della felicità è legato sicuramente al desiderio. Il desiderio è qualcosa che si potrebbe definire una passione declinata al futuro, ossia del futuro ha i due caratteri fondamentali: quello dell'incertezza, che il desiderio si realizzi, e dell'attesa spasmodica, che può durare a lungo, anche se poi finisce in un tutto qui, ma che spesso non si abbandona. Poi il desiderio ha anche un altro aspetto di cui parlerò più avanti. Il desiderio sembra riferito al futuro, ma molte volte è riferito al passato. È il tentativo di orientarsi attraverso una mancanza che si sente verso qualche cosa di diverso che può rivelarsi appunto all'improvviso. C'è una bella definizione di Hobbes della felicità, la dico nel suo latino, che è molto bello ma di facile comprensione, comunque lo traduco. La felicità è ad fines semper ulteriores minime impedita progressio. La felicità è un progredire con il minor numero di ostacoli verso il conseguimento di obiettivi sempre più avanzati. Non dimenticate che la vita è rappresentata da Hobbes come una corsa, in cui chi è davanti è il vincitore, è pieno di gloria, chi si volta indietro per vedere come stanno gli altri e perde terreno lo fa per vanagloria, e chi viene sconfitto sostanzialmente muore. Ora, questo modello paolino della corsa che porta alla gloria del paradiso è tradotto in termini, diciamo, molto forti, chiamiamoli pure laici e materialisti, da Hobbes. Si ha felicità soltanto quando si raggiungono degli obiettivi che ci si è proposti. Quindi in Hobbes l'aspetto della felicità è agonistico, non c'è l'elemento del dono, non c'è l'inatteso, c'è il perseguito con forza, molte volte anche con violenza, per primeggiare. Quindi c'è la vittoria come caratteristica della felicità. Ci sono quelli che ormai nella tradizione anglosassone sono definiti gli winners, i vincitori, e i losers, i perdenti o i falliti. Felicità è quella di essere tra i vincenti e di guardare con una sorta di commiserazione o di disprezzo coloro che invece sono risultati perdenti nella corsa della vita. Però il problema del desiderio, e quindi di un desiderio che sostanzialmente guarda avanti, viene declinato in un altro modo da Cartesio. Parlo dei filosofi perché siamo in questo ambito. Cartesio alla principessa Elisabetta del Palatinato scrive che gli uomini sbagliano non perché desiderano troppo, ma perché desiderano troppo poco, e che quindi è la loro tendenza a realizzare i propri obiettivi che anche per lui dà la felicità. Soltanto che non c'è in Cartesio questo modello obesiano di chi vince e di chi perde. C'è la realizzazione di se stessi attraverso il desiderio. Un desiderio che si può raggiungere anche in solitudine, a differenza di quello che si dirà dopo a proposito della felicità pubblica. Raggiungere in solitudine perché il motto di Cartesio, perseguitato dall'Inquisizione, rifugiatosi in Olanda, è di vivere nascosto, di portare una maschera, larvatus prodeo, quindi di non mostrare le proprie emozioni. E Cartesio, che passa per filosofo razionalista all'estremo, con una traduzione sbagliata del cogito ergo sum, in cui cogito viene tradotto penso dunque sono, mentre Cartesio per ben due volte specifica nelle Meditazioni metafisiche, andatevelo a guardare, che cogitare vuol dire pensare, immaginare, sentire, provare piacere e dolore, e quindi il cogitare è un agitarsi dell'animo analogo a quello che per lui nella fisica sono i vortici di atomi. Lui ritiene che il mondo sia fatto di atomi vorticanti. Quindi è sbagliato tradurre cogito, compenso dunque sono. Sono agitato da tutti questi elementi che rappresentano la mia coscienza, quindi da passioni, immaginazioni, eccetera, e dunque mi accorgo di esistere. È così poco razionalista nel senso volgare Cartesio che la sua ultima opera dedicata a Elisabetta del Palatinato è appunto rappresentata dalle passioni dell'anima, in cui mostra tutta la gamma delle passioni, tra cui appunto quella della felicità, e fa vedere appunto come la felicità sia quasi, come voleva Aristotele, una forma di amicizia con se stessi, una forma di equilibrio che uno raggiunge e che ha però questo carattere anti-obesiano della generosità, della donazione di sé, e questo fornisce un controbilanciamento di quello che dicevo prima, cioè si può essere felici anche da soli, soprattutto in situazioni estreme di persecuzione in cui bisogna stare attenti a chiunque, a qualunque persona con cui si parla perché potrebbe tradirti e consegnarti all'Inquisizione e così via. Ma c'è una felicità anche non pubblica in senso politico per Cartesio, ma di rapporti di amicizia in cui c'è l'elemento della donazione di sé, della generosità. Ecco, se quindi si sbaglia nel desiderare troppo poco e invece bisognerebbe desiderare molto, questo porta immediatamente, perché Spinoza, restando sempre nel Seicento, si è formato su Cartesio, all'idea spinoziana di cupiditas, cioè l'essenza dell'uomo non è la ragione. La ragione è un livello intermedio, sono le passioni, la ragione è, appunto la forma più alta di conoscenza che è appunto quello, l'amore intellettuale. L'amore intellettuale, l'amore è proprio questo amore di donazione, questa espansione di se stessi verso qualche cosa che trascende i nostri egoismi e ci rende degli esseri in sintonia con tutto ciò che è, con la natura stessa. Quindi la felicità è appunto, come in parte era negli stoici, questo sentirsi in armonia col cosmo. Guardate, non soltanto con la politica, cioè con gli uomini, ma con la natura nel suo complesso. Vedere la presenza di Dio o della natura in tutto ciò che esiste. C'è una bellissima novella di Gottfried Keller, che è uno scrittore svizzero dell'Ottocento, intitolata Ursula, molto spinoziana, in cui si mostra, attraverso il personaggio, che vede i ghiaccioli che pendono da un tetto innevato, un nibbio che passa, la polvere che attraverso la luce proveniente da una finestra sembra danzare in una stanza come la presenza del cosmo, ossia di Dio stesso. Quindi la grande felicità è quella di mettersi in rapporto con il mondo nel suo complesso. Ecco, quello che è cambiato rispetto all'antichità è che nel mondo antico la conoscenza era funzionale alla felicità. Cioè, non esisteva l'idea di una conoscenza per la conoscenza. Era una conoscenza che mi metteva in condizione comprendere la realtà in cui vivo e che quindi mi mette in condizione sentire questa pulsazione, chiamiamola così, dell'essere nel suo complesso. Quello che cambia, prima col cristianesimo indirettamente e poi direttamente con la filosofia moderna, diciamo così, delle origini, è che a un certo punto, a causa della rivoluzione scientifica, la conoscenza diventa fine a se stessa. Conoscere per il conoscere. Anche perché, e qui entra l'elemento del cristianesimo, la filosofia non deve dare felicità, perché la felicità vera sta dopo la morte, per i fedeli, nel paradiso. Questa idea di restringere la filosofia a conoscenza, che è durata per qualche secolo, e a cui Cartesio e Spinoza hanno cercato di mettere rimedio, ha portato all'idea che il mondo politico, sociale, tutto ciò che non è riducibile a scienza rigorosa e pura, è lasciato abbandonato dalla razionalità, ha lasciato crescere in mezzo ai rovi. Per cui sostanzialmente tutti quelli che sono sentimenti, tutti quelli che sono esperienze, che non possono essere riportate a qualche cosa di riproducibile, vengono lasciati alla ricerca individuale. Cioè la conoscenza non conduce più alla felicità si può giungere semplicemente attraverso o la crescita dei desideri, oppure cercando di trovare, come si farà in seguito, in questa valle di lacrime, in questo squallido albergo che è la vita terrena che precede la gioia del paradiso, si può ottenere soltanto attraverso una immersione nella storia. E questo è il grande passaggio che io naturalmente posso riassumere a pennellate molto larghe, cioè il sapere che si passa tra 600 e 800, diciamo, dall'idea di un mondo naturale in cui l'individuo è immerso e che si può conoscere soltanto attraverso le leggi rigorose della matematica, della fisica, dell'astronomia, ma non attraverso l'esperienza umana abbandonata a se stesso, ha l'idea di una immersione di ciascuno nella storia e nella politica. Cioè rispetto al mondo naturale, quello che gli uomini non hanno fatto, quel mondo civile, diceva Vico, fatto dagli uomini. E allora come trovare all'interno della storia degli spazi di felicità? L'idea fondamentale è che è difficile. Hegel, citando indirettamente Lucrezio, diceva che bisogna stare come uno che sulla terraferma guarda al sicuro il naufragio altrui, non perché goda dei pericoli che gli altri corrono, ma perché lui appunto è in una zona franca. Hegel cita questo, ma lo contesta, dicendo che non bisogna essere degli spettatori di un naufragio, ma bisogna introdursi in questo mondo fatto di contraddizioni e di dolore per poter poi uscire. E aggiunge però una cosa, che nella storia la felicità è una pagina bianca, cioè non c'è felicità nella storia. Quindi sostanzialmente bisogna cercare di trovare non la felicità che è irraggiungibile a sprazzi, non ritagliarsi, dice, una fetta di cielo in terra, cercare la Befriedigung, che è un termine difficilmente traducibile, la pacificazione, diciamo la contentezza, accontentarsi di vivere a sprazzi, queste domeniche della vita, le chiama così, che sono date dall'arte, dalla religione e dalla filosofia. Quindi il mondo, diciamo, dei giorni feriali è un mondo semplicemente fatto di violenza, di brutalità, di indifferenza, è un mondo che non meriterebbe di essere vissuto se non ci fosse appunto questa pausa domenicale. Non so se Hegel avesse presente la conclusione di Agostino nella Città di Dio, in cui dice che nella Città di Dio, quando raggiungeremo il paradiso, dies septimus nos ipsi erimus, cioè che in questa festa, in questo giorno festivo della storia, che sarà il mondo ultraterreno, finalmente saremo noi stessi, conosceremo noi stessi. Ecco, per Hegel la felicità è proprio questa Selbstbegegnung, incontrare se stessi, riconoscersi non come semplici individui, ma come diciamo un io che è costruito attraverso il noi, la collettività, la storia, in cui la felicità appunto è data in momenti di grazia per essere considerata qualche cosa di prezioso, ma di sostanzialmente eccezionale. E invece appunto tutta la tradizione di molte filosofie e di molte posizioni di tipo religioso va contro l'idea della raggiungibilità della felicità. Vi cito alcuni testi esemplari, e cioè l'Edipo re di Sofocle, quando dice: «Povere generazioni dei mortali, per me la vostra esistenza è uguale al nulla. Quale uomo mai conosce altra felicità se non quella che si immagina e che declina dopo l'illusione?» Oppure il Coelet, insomma l'Ecclesiaste: vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui si affatica sotto il sole? Si potrebbe continuare naturalmente a lungo, ma in realtà c'è l'idea sempre della rinuncia, per esempio come quella degli stoici: se vuoi essere ricco, sii povero di desideri, cioè non desiderare molto, non aspettarti la felicità, contentati di ciò che la vita ti consegna. Oppure antropologicamente l'idea dell'incontentabilità umana, dell'infelicità, naturalmente è una storia lunghissima, mi basta ricordare la malaccontentezza umana teorizzata da Machiavelli, è un passo di Schopenhauer che dice: ogni volere scaturisce dal bisogno, ossia dalla mancanza, ossia dalla sofferenza. A questa dà fine l'appagamento, tuttavia per un desiderio che venga pagato ne rimangono almeno 10 insoddisfatti. Inoltre La brama dura a lungo, le esigenze vanno all'infinito. L'appagamento è breve e misurato con mano avara. Anzi, la stessa soddisfazione finale è solo apparente. Il desiderio appagato dà tosto luogo a un desiderio nuovo. Quello è un errore riconosciuto, questo è un errore non conosciuto ancora. Ecco, andando velocemente, mi pare avere 5 minuti ancora, verso l'aspetto sociale dell'infelicità, va ricordato che intanto l'idea del diritto inalienabile alla felicità non c'è soltanto nella Costituzione americana. Una scoperta che ho fatto andando in Iran, che c'è nella Costituzione di Khomeini del 1979. Ora, anche questo ritorna a quello che dicevo prima, cioè non si può obbligare le persone a essere felici. Però l'articolo 3 della nostra Costituzione, una soluzione indiretta, l'ha data. La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della personalità umana. Il che non vuol dire ancora che la politica ha l'obbligo di renderci felici, ma di eliminare indirettamente tutti i fattori di infelicità. E questa è già una strada. Poi uno la felicità se la cerca da sola. Questo vuol dire anche che tutti i modelli illuministici dei tanti trattati sulla felicità pubblica, penso al Verri per esempio, non implicano affatto che si debba avere una realizzazione di tutte le aspettative, una gioia solenne delle pubblicità, come Rousseau che aveva cercato di mettere nelle feste, nell'organizzare delle feste di carattere politico nazionale, l'idea di una partecipazione alla cosa pubblica, ma contemporaneamente di una felice partecipazione. Cioè, ormai c'è l'idea che la politica non può e d'altra parte non deve rendere felici, deve eliminare però gli ostacoli all'infelicità. E questo porta anche a un altro aspetto. Per essere felici, lo dicevo prima, è necessario attivare desideri di felicità. Ma il grande economista indiano, premio Nobel, Amartya Sen, parlando del suo paese, dove ormai si supera 1 miliardo di persone e dove la struttura di caste è ancora abbastanza forte e i paria sono circa 150 milioni, ma non solo loro, dice Amartya Sen, chi non ha prospettive non solo di felicità, ma di una sopravvivenza decorosa, finisce per non desiderare niente. C'è un'eutanasia del desiderio, che è nello stesso tempo un'eutanasia della speranza e una rinuncia netta alla felicità. Quindi il problema che si pone è quello di un tipo di felicità pubblica, chiamiamola ancora così, che sia in grado di assicurare ai cittadini un tipo di esistenza sottratta a fattori che rendono la vita precaria. È proprio in questo ultimo periodo, con le crisi economiche, per esempio quella non solo italiana ma mondiale del 2008, di tipo finanziario, con il ritorno, come diceva il Papa Francesco, della terza guerra mondiale a pezzetti, con la crescita dell'insicurezza, della disoccupazione, che è difficile essere felici, è come uno che si mettesse a ballare in un lazzaretto o in un ospedale. Il che vuol dire che noi dobbiamo rinunciare a questo bisogno di essere in armonia esplosiva con noi stessi, che dobbiamo soltanto piangere e lacrimare. No, vuol dire semplicemente che proprio perché la situazione è così caratterizzata dalla precarietà dell'esistenza, che in questa precarietà bisogna introdurre degli sprazzi almeno di felicità che non portino a dimenticare le condizioni date, ma che in sostanza non ci mettano in una situazione che porta alla deriva e all'abbandono di qualsiasi piano di vita e di qualsiasi speranza. Diceva la buon'anima di Kant, e con questo finisco, che la speranza è simile alla candida colomba che non potrebbe volare se non ci fosse la resistenza dell'aria. Così non soltanto la nostra ragione non può espandersi se manca il contrasto, il conflitto del mondo in cui viviamo, esterno e interno, ma qualsiasi forma di conflitto non deve far altro che spingerci per trovare sprazzi di felicità e possibili soluzioni alle difficoltà e agli ostacoli, non può che spingerci a cercare questa felicità attendendola come un dono, ma propiziandola possibilmente con una vita fatta di conflitti che di volta in volta si possono risolvere. Un po' di Hobbes, un po' di posizioni simili a quelle dello stoicismo romano, cioè non si prepara niente, o come Marco Aurelio che diceva: non cerchiamo la Repubblica di Platone, ma qualsiasi piccola modifica è importante per arrivare a grandi cambiamenti. E vi ringrazio. Ringraziamo il professor Bodei per questo suo intervento, per l'avere collocato la tematica della felicità all'interno del meccanismo del desiderio che porta ad un ampliamento del sé, verrebbe da dire, come improvvisa eccedenza individuale che poi arriva ad attraversare il noi sino all'intera natura, e sulla dimensione politica la rimozione di ostacoli alla felicità. La parola ora al professor Salvatore Natoli. Ringrazio per essere stato nuovamente invitato a questo vostro ciclo. Entro in argomento e vista anche, diciamo, la esiguità del tempo rispetto al problema, mi limiterò a indicare alcuni focus di riflessione, alcuni punti focali. Riprenderò in larga parte le cose che ha detto Bodei, su cui mi trovo d'accordo e che quindi uso anche come piattaforma di lancio per delle, come dire, delle integrazioni, no? Delle, diciamo, linee di approfondimento, di applicazione. Allora, questo è stato detto, ma lo riprendo. La felicità non si può definire, si può descrivere il modo in cui ci si sente felici. Poi le definizioni si possono anche dare, però come sempre la definizione restrittiva definisce, ed è difficile definire sempre, ma in particolare è difficile definire rispetto a dimensioni di stato d'animo che non hanno perimetro, che sono fluttuanti. Quindi non è che non si possano dare definizioni della felicità, se ne possono dare tante. Tutti i filosofi che ha citato Remo danno definizioni della felicità. Però io ritengo che sono tutte sottodeterminate rispetto all'esperienza. Però l'esperienza è descrivibile. Allora direi che ci sono due dimensioni, no? Abbiamo detto che sono molte, ma ci sono due dimensioni che io intendo mettere a fuoco. La prima dimensione della felicità è il sentimento della propria illimitata espansione. In un mio scritto sulla felicità dico: l'esperienza primaria, prima fase della felicità, è il sentimento della propria illimitata espansione, che ha due caratteristiche. La dimensione espansiva, che ha tratti acquisitivi, cioè raggiungere l'oggetto del desiderio, che è caratterizzata dalla tensione. Quindi è connessa alla felicità la dimensione della tensione, il desiderio è questa tensione, che è mancanza ma che è anche potenza, che è anche potenza, perché c'è questo singolare ossimoro che il desiderio è mancanza ma è anche potenza, cioè è spinta. Per capire questa cosa bisogna fare una distinzione, per esempio, tra l'inappetenza e la fame. In ambedue i casi non c'è il cibo, ma nel primo caso non si ha la capacità di acquisirlo. Nella seconda c'è la voglia fortissima di raggiungerlo. E volendo tornare a questo schema, in termini di fisiologia, l'inappetenza è in generale segno di malattia, cioè deficit di forza. Uno dei primi segnali che uno è malato, perde l'appetito. Quando è sano, ha appetito, quindi c'è una mancanza che spinge. Evidentemente una mancanza che spinge deve essere una forza, perché altrimenti non avrebbe la dinamica propulsiva. Quindi è una mancanza del tutto singolare, ma allora da questo punto di vista la cupididas di cui parla Spinoza è un diagramma molto preciso di questo meccanismo. Allora c'è una dinamica tensionale della felicità, e allora una dinamica tensionale che ha come sua caratteristica un deficit di resistenza, cioè non ha grandi ostacoli, nel senso che non c'è l'ostacolo al raggiungimento, e quindi si arriva facile, oppure si ha una forza talmente forte da abbattere l'ostacolo. Quindi noi abbiamo due dinamiche dell'espansione, no? L'espansione fluida, vai verso l'oggetto, vai leggero, oppure la dimensione di avere un ostacolo, ma tu sei talmente forte che lo superi, lo abbatti. Ecco, per stare alle definizioni, c'è una bellissima definizione di Nietzsche: la felicità non sta nella sazietà, ma sta nella gloria della vittoria. Quasi a dire che l'ostacolo è necessario allo scatenarsi della felicità. Quindi la dimensione tensiva, e accanto a questo c'è la dimensione invece di acquietamento. La felicità è raggiungere l'oggetto del desiderio, ma una volta che l'oggetto del desiderio è raggiunto, o si resta delusi, tutto qui, o ci si acquieta nell'oggetto, o ci si risolve in esso. E questo è molto importante, perché fa intravedere una dimensione della felicità non nella forma acquisitivo-passionale, ma in quella relazionale. C'è la famosa dossografia: dopo il coito ogni animale è triste, ma è triste perché misura la sua soddisfazione nel coito. Ma se il coito riposa nell'amore, risorge. L'acquietamento non è divorare l'altro, ma è l'abbraccio e acquietarsi nell'altro. E quindi non è via di felicità la dinamica esterna di possesso dell'oggetto, ma è via di felicità l'incontrare l'oggetto e tenerselo da presso. E questo qualsiasi oggetto. Perfino nel gusto, nel palato, delibare il vino. Tutta l'ars amatoria. L'arte della cucina di cui oggi cos'è? È sostanzialmente un atto fondamentale di rispetto per la cosa. Tu godi la cosa quanto più la rispetti nelle sue qualità. E quindi per gustare il vino lo devi delibare, la lingua se lo deve tenere in bocca il più a lungo possibile. Ora, se questo accade con il vino, nelle relazioni umane, questo è infinito. E allora l'infinito non è l'attualità dell'infinito che devi raggiungere, ma è l'infinito di una prossimità. Allora pensare la felicità in termini di acme non è che sia un errore, è un abbaglio, è stare prima facie. E allora invece c'è un'altra dimensione della felicità che è molto più profonda. Sapersi relazionare in modo intonato con il mondo. Allora qui l'elemento di caso diminuisce. Perché è vero, ha detto molto bene Remo, la felicità la si cerca e poi non la si trova. Tutto qui, ho faticato tanto, tutto qui. Dinamica desiderante possessiva, tutto qui, tesa a divorare l'oggetto, e poi resta niente, il tutto precipita nel niente. Mentre la dimensione della felicità, che si risolve nel riconoscimento dell'oggetto o dell'altro, non conquista l'altro, ma lo accoglie e lo tiene presso di sé. Quindi la dinamica della felicità è la relazione. E quindi la dimensione della felicità come abito permanente per l'uomo è la capacità di sapersi intonare ad ogni momento con le cose. Se la felicità è questa, non è da raggiungere alla fine, in paradiso, non è in deficit costante perché si vuole sempre di più, ma è sempre, in ogni momento, se tu incontri la realtà e non la perdi mai. Ogni atto di, come dire, convergenza con il reale, e qui la teoria dei momenti, la teoria dei momenti, sapere in ogni momento trovare l'intonazione. Ecco perché il libro di Coelet non è un libro pessimista. Vi ricordate la dottrina dei momenti in Coelet? C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, no? Un tempo per seminare, un tempo per raccogliere. Normalmente questo è letto, c'è un tempo buono e c'è un tempo cattivo. Falso! Tutti i tempi sono buoni se a suo tempo tu sei capace di essere all'altezza del momento. E allora mettiamola così. Molte volte gli uomini sono infelici perché se lo meritano. Cioè non hanno la virtù adeguata per raggiungere la felicità. E allora se ti costruisci questo abito, la felicità diventa sempre meno occasione. E quindi ti costruisci una struttura che è una sorta di campo magnetico. Cioè mentre nel primo caso la felicità è solo per caso, se tu hai attenzione per il mondo, allora non ti lasci sfuggire ciò che nel mondo può essere elemento di fecondità. Se sai incontrare, ogni momento è un caso positivo. Se non sai incontrare, devi aspettare il caso buono quando viene. Ecco perché gli antichi dicevano, e ci avevano ragione, che la felicità consiste nella virtù come abilità ad esistere. Perché questa è la virtù per gli antichi. Sapersi trarre dalle difficoltà. E quindi capite bene che la felicità diventa un'abilità o una strategia di riuscita. Allora, siccome gli uomini sono per lo più passivi e se la fanno facile, la felicità o se l'aspettano per caso o la vogliono costruire artificialmente, cioè si drogano sia l'una cosa che l'altra, è assenza di relazione. Allora capite che, come dice Aristotele, non si può essere felici quando c'è la tortura della ruota. Non si può essere felici nella penuria. Sarebbe banale, sarebbe un volgare ottimismo dire questo. Ma il discorso aristotelico è che sì, ci sono delle situazioni talmente pesanti in cui pronunciare la parola felicità è blasfemo, è incongruo, però molte sono le occasioni in cui gli uomini potrebbero essere felici e non lo sono perché se la lasciano sfuggire, e se la lasciano sfuggire perché non sanno incontrare. E allora capite bene, immediatamente, in base a questo ragionamento, che la felicità, essendo relazione, è sociale, è ecologica. Chiedete ad un pollice verde quanto è felice, ma quanto tempo ci dedica a far fiorire quel fiore? Sarà dispiaciuto se non fiorisce, ma non per questo smetterà di averne cura. e quindi nell'attenzione, nella reciproca cura si produce quella fecondità che entra in circolo costante e allora si può essere felici. Questo non lo poteva capire Hobbes. Non lo poteva capire Hobbes. Non aveva le categorie per capirlo. Allora buttiamo via Hobbes. Ci sono moltissime altre ragioni per cui ce lo dobbiamo tenere. Moltissime. Per esempio quello dell'uguaglianza. Però, rispetto alla felicità, c'è questa patologia. Ecco, la patologia del desiderio. Cioè, un desiderio che non produce relazione, ma divora ciò che incontra. E quindi non conosce lo stare accanto, lo star da presso. E qui ha ragione Levinas, nelle relazioni umane, l'altro è inesauribile. Solo se è una cosa, tu lo esaurisci. Ma se è il volto, che è tutto presente nell'essere volto, ma non lo raggiungi mai nella sua pienezza, resta per te sempre un qualcosa che hai accanto, è sempre con te, e anche per te, ma non è sotto il tuo possesso. Bellissima quella pagina di Levinas, quando, opponendosi per molti versi alla posizione, alla tradizione che poi riprende Ricoeur, l'altro dentro di me, e sviluppa quella tematica importante della estraneità. L'altro è estraneo, non lo posso mai ridurre a me, ma è fonte della relazione. L'estraneità non vuol dire che non rapporto, vuol dire irriducibilità a me. E la dimensione fondamentale dell'estraneità è data dalla corporeità. L'altro è il suo corpo vivente. Come fai a neutralizzare questa estraneità? Cosa fai? Neanche nell'amore ci riesci, anzi non ci devi riuscire, perché altrimenti faresti lo stupro, lo devi lasciare essere inevitabilmente e incontrarlo costantemente. Non è vero che la felicità non è possibile, ci sono delle patologie che la impediscono, degli errori che la impediscono, che hanno fatto anche i filosofi, o perlomeno, come ha ben mostrato Remo, cose che per certi aspetti sono sbagliate, per altre si possono ben recuperare. Qui bisognerebbe parlare del prospettivismo in filosofia. Perché per giudicare un filosofo bisogna misurare l'intenzione che aveva davanti. Per giudicare una filosofia bisogna tenere presente il problema che intendeva risolvere. Mentre noi siamo abituati a considerare la filosofia come una soluzione astratta generale. Nessun filosofo ha mai dato soluzione astratta generale. Aveva un problema. Allora rispetto a quel problema magari era adeguata, ma se noi la ipostatizziamo diventa non solo un errore, ma molto spesso una corbelleria pura. Ecco, a che punto sono? Ecco. Allora, a questo punto credo che il passaggio è facile. La felicità è relazione, sapersi intonare. Ad ogni momento. Allora, siccome noi siamo tempo, la soluzione cristiana qual era? Nel tempo che verrà. Per esempio Coelet non è d'accordo su questo. Non a caso ce l'hanno messo nella Bibbia per il rotto della cuffia. Perché per Coelet gli uomini muoiono come gli animali. E quindi aspettare un tempo, no? Ecco perché teorizza i momenti. E c'è quel passo bellissimo del finale di Coelet, che cita poi Leopardi, godi fanciullo, e allora si è letto questo alla Leopardi, cioè in modo romantico. Godi fanciullo perché sei giovane. Ma se si va al versetto prima, Coelet dice, godi di quello che hai fatto nella vita, godi dell'opera delle tue mani, quindi anche l'anziano può godere. E perché si legge soltanto il versetto leopardiano e non quello di prima? Perché la Chiesa voleva squalificare la vita, voleva gettare il velo nero sull'esistenza, come dice Nietzsche, e non per malafede. Anche lì loro avevano un problema. Allora, relazione vuol dire vita sociale. Non si può essere, se è valida questa premessa, la lascio come focus, perché capite bene, se la dovessi sviluppare, non sarebbe possibile, ma credo che si capisca abbastanza. Allora, nelle relazioni sociali riuscite, è possibile essere felici, se le situazioni sociali sono riuscite. Cioè, se gli uomini si incontrano in una dimensione di reciprocità. Gli uomini, in quanto sono combattuti da affetti che sono passioni, dice Spinoza, possono essere diversi per natura e reciprocamente contrari, ma poiché ciascuno, per le leggi della sua natura, appedisce ciò che giudica buono e si sforza di allontanare ciò che giudica cattivo, sotto la guida della ragione si accorda con la natura di ciascun uomo. Tra le singole cose nulla c'è più utile all'uomo dell'uomo. Quando ciascun uomo cerca al massimo il proprio utile, allora gli uomini sono al massimo utili gli uni agli altri. Quando si cerca al massimo il proprio utile, si è utili agli altri. Dico questo come manifesto, ma questa è la via di soluzione. Allora, si è felici sostanzialmente se ci si prende rispettivamente in carico. Perché se non lo si fa, nella società permane quel grado di inimicizia per cui ti senti sempre esposto alla morte. E qui ha ragione Hobbes. Solo che Hobbes parte dall'idea che gli uomini originariamente sono in una situazione di uccisione reciproca. Io, da vecchio aristotelico, dico che non è vero. Che non è vero. Che l'uccisione c'è, ma non è la dimensione originaria dell'uomo. In ogni caso, indipendentemente da Aristotele e Hobbes, lo stesso Hobbes, una volta che ha instaurato la società, parla dei benefici della pace. Non ci arriva come Aristotele, che li pone all'inizio, ma una volta che gli vuole, i benefici della pace. Nasce l'individuo moderno, nasce il mercato, lo Stato protegge le azioni degli uomini, no? Poi, in un modo completamente diverso, la cosa sarà sviluppata da Hobbes, ma comunque lo Stato protegge, li protegge dalla morte. Li protegge dalla morte. Nel Novecento è diventato il welfare, cioè amministra la vita. È quello stesso Stato, che evolvendo non poteva stare sempre sulla soglia della morte, perché avrebbe dato solo morte, cioè soggezione. Per togliere ed eliminare la paura doveva sviluppare protezione. E il welfare non è soltanto la protezione che lo Stato dà, ma è la possibilità che gli individui possano sviluppare al meglio la loro exis, direbbe Aristotele, la loro capacità. E su questa linea concludo. Quando una società può garantire un certo ordine di felicità? Ha ragione Remo, non può prescrivere la felicità, non può dare la felicità in presa diretta, perché ogni uomo se la deve raccogliere lui nei momenti, nelle relazioni che sono indeterminate. Come fa lo Stato a programmare la felicità? Infatti nel dibattito dell'economia della felicità c'erano due posizioni, quella di Kahneman, che dice dobbiamo trovare degli indicatori oggettivi della felicità, altrimenti non possiamo fare un'economia della felicità perché non la possiamo calcolare. Sen dice no, non la possiamo calcolare. Noi dobbiamo creare le condizioni in base a cui uno se la cerchi e poi lui la raggiungerà. Cioè si ripete nella diatriba tra Kahneman e Amartya Sen il conflitto che c'è tra Bentham, utilitarista che cercava un calcolo delle felicità, e John Stuart Mill, utilitarista, che diceva no, ho sbagliato, ma John Stuart Mill aveva letto Aristotele. Quindi mettere gli uomini nella condizione di poter raggiungere che cosa? La realizzazione delle loro capacità. Ora, la realizzazione delle proprie capacità, ancora una volta, non può essere soltanto individuale. Perché le proprie capacità si raggiungono nella società. Allora, A, la società ti deve mettere nelle condizioni di raggiungerlo. Ma se tu perfezioni le tue capacità e di questo fai uno strumento per sfruttare gli altri, generi di nuovo guerra, perché non te la perdonano. Anzi, ritengono perfino illegittimo quello che tu hai raggiunto legittimamente. Allora, perché ci sia una legittimità, un riconoscimento? Beh, quello che tu hai raggiunto con la tua capacità deve ridondare a beneficio collettivo. Il modello contrattualista di Rawls è giocato in questo modo. La società ti permette di diventare un bravo medico, quindi ti permette di realizzare al massimo le tue capacità. Quindi l'uguaglianza come egualitarismo è un errore, anzi è una violenza. Tu diventi un bravo medico, la società ti permette di farlo. Ma quando tu sei diventato un bravo medico vuol dire che operi per il bene della società. Cioè l'affermazione della tua capacità, la tua exis, ha come telos, come destino, il bene collettivo. E se questo non accade, beh, allora da questo punto di vista il potere pubblico deve intervenire per moderare le repubbliche ben temperate. Quindi molto può fare il potere politico e la società stessa nella forma dell'auto-organizzazione per permettere quelle basi minimi di eguaglianza che consentono ai soggetti di raggiungere la loro propria personale perfezione. Perché raggiungendo la propria personale perfezione sono di beneficio agli altri. Un medico ignorante certamente non rende felici. Un medico bravo è più bravo di un altro perché ha dotazioni migliori, perché la natura è varia. Non bisogna penalizzare la dote. Bisogna distribuire il bene. Perché se tu penalizzi la dote non la fai nascere. Se tu non distribuisci il bene, fai in modo che quella dote divenga prevaricante. E John Stuart Mill dice, l'individuo sì, ma in taluni casi se l'individuo ha un'eccellenza tale che raggiungendo certe posizioni diventa d'ostacolo all'elevazione degli altri, beh, questo successo deve essere limitato. Ecco, allora concludo. Molte cose si possono fare perché la felicità sia un bene possibile. Ci sono dei diritti elementari che si possono garantire. La possibilità di vivere una vita pienamente umana, non morire prematuramente, perché se si muore prematuramente allora non c'è ragione di vivere, cade il desiderio. Buona salute, cibo, dimora, evitare i dolori inutili. I dolori inutili sono prolungare un dolore quando questo può essere sospeso. Tutto il discorso sul dolore, tutto il ragionamento eutanasico si apre qui. Uso dei sensi e dell'immaginazione, sviluppare la sensibilità, la creatività, l'immagine, la fantasia. Molte volte mi capita di parlare con i giovani che vanno in discoteca, dico non entro nel merito della musica, questi sono fatti vostri, non entro nel merito degli effetti della pulsanda tellus, della danza, questi sono fatti vostri, però se questa musica riduce il vostro potenziale acustico non sono fatti vostri, è una mutilazione, non sentite più una cicala. Quindi liberare i sensi non vuol dire eccitarli in modo perverso, vuol dire raffinarli, sentire il suono più vibrante e alto, ma anche quello minimo. Educazione della sensibilità, educazione estetica dell'umanità, avrebbe detto Schiller. Stabilire relazioni positive con gli uomini, poter vivere la vita realizzando i propri desideri, nel senso detto prima, cioè incontrando di volta in volta uomini, situazioni e eventi, e poi il dono di sé. Ognuno si prenda in carico la vita dell'altro. La cura reciproca, la pietà, ma nel senso greco della parola, eusebeia, che non è compassione, non è sentimento. La pietà è ritirarsi indietro dinanzi a qualcosa di sacro. La pietà è la inviolabilità dell'altro, il rispetto più assoluto. E quindi nel prenderlo in carico, non solo non chiedere niente, ma non ritenere che quello che io faccio sia per ciò stesso, per la mia buona volontà, un bene. Il bene maggiore non è nel dare, ma nel capire quello che l'altro desidera da te. Non è un bene materiale, anche qui è un'attenzione. È l'obbedienza all'altro, nel senso alto della parola ob audio, ascoltare la sua voce come se fosse per me un comando. Oggi noi non ci ascoltiamo più. Che non sia nell'obbedienza la via migliore per raggiungere la carità. Che non avesse ragione Sant'Ignazio per indeac cadaver. Viene da dire che l'intervento del professor Natoli, che ha concentrato la propria attenzione finale sulla cura di sé, vada a chiudere una sorta di circuito che parte dalla felicità come una illimitata espansione di desiderio e tensione che va ad acquietarsi nel fatto relazionale e quindi sociale, atto a promuovere quanto di meglio, di potenziale c'è insito nell'individuo. Ringraziamo ancora una volta il professor Baudet e il professor Natoli per i loro interventi e lasciamo ora spazio per questioni, quesiti, domande da sottoporre ai nostri relatori da parte del pubblico. Invito ciascuno o ciascuna che desideri intervenire di alzare la mano, ci sarà un microfono che si muove in sala e pregherei agli interventi brevi. Grazie. È stato giustamente detto che la felicità viene cercata nell'agonismo, nel superamento degli ostacoli e anche nella realizzazione dei propri desideri. Ma in Oriente si è abituati a concepire la felicità come astensione dal desiderio, come ricerca della estasi, della samadhi, della tranquillità pura da ogni turbamento, uno stato di atarassia, di purezza, di un contatto profondo con il fondo dell'essere. Grazie. Raccogliamo due o tre interventi e poi ricediamo la parola ai nostri relatori. Sì, da sopra forse se riesce magari a parlare. Un ultimo intervento. Un ultimo intervento se c'era qualcuno che voleva. Ecco. Grazie ai due relatori. Ho una domanda breve rispetto al rapporto fra la felicità e il tempo e la felicità e la morte. Se poteste approfondire questo aspetto, vi ringrazierei. Il professor Pasqualotto, che ci sarà qua, risponderebbe meglio di me alle domande sull'Oriente. Ma anch'io conosco un po' la di filosofia indiana per cercare di capire. Certamente l'assenza di desiderio, quella che poi anche nella tradizione occidentale ellenistica era l'atarassia, è qualcosa che proprio raggiunge non tanto la felicità, ma il perdersi nel tutto. Noi abbiamo un'immagine negativa del nirvana, nel senso un dissolvimento dell'individualità, mentre invece nella tradizione indiana, il buddista in particolare, il nirvana è questo fondersi nel tutto a qualcosa di positivo. Nell'immagine tradizionale che si fa, è come entrare nel mozzo di una ruota. La ruota del divenire continuamente ci trasforma e ci fa soffrire. Le quattro verità del Buddha sono queste, appunto, la morte, la povertà, eccetera, il dolore. Mentre invece entrare in questo mozzo della ruota che resta immobile e quindi uscire dalle trasformazioni è la vera felicità. Qualcosa di analogo ha fatto attraverso la filosofia indiana Schopenhauer, in cui però il problema è appunto quello del perdere se stessi, del dissolversi dell'individualità. Ora vorrei dire, anche riferendomi a quello che è stato detto prima dal professor Natoli, che io farei una distinzione rispetto alle cose che diceva anche lui tra la felicità in quanto sintonizzarsi o intonare ogni momento alle situazioni. Direi invece che questo è uno dei modi della felicità in cui classicamente l'eudaimonia aristotelica, l'entrare in relazione armonica con se stessi o con il mondo negli stoici, può essere concepita, ma già nell'antichità e soprattutto in età moderna non è soltanto cosa romantica. C'è la felicità, come diceva Nietzsche, come sovrabbondanza di vita, cioè come qualche momento eccezionale, non programmabile, a cui non ci si può abituare, che è simile all'ecstasy, all'uscire fuori di sé. Soltanto nel momento in cui l'io, più che dissolversi, si solleva su se stesso, allora c'è la felicità. Mentre il sintonizzarsi è certamente una forma di felicità, ma è una felicità che somiglia di più alla tranquillità dell'anima o alla serenità di cui parlavo prima. Per quanto riguarda la seconda questione posta al professor Natoli, ma posso, se mi è permesso, rispondere anch'io, come si entra in sintonia con le cose, lo dico perché ho scritto un libro che si chiama La vita delle cose. E si può fare se si distingue anche terminologicamente il termine cosa da oggetto, perché cosa è una contrazione dal latino causa, come si dice battersi per la causa, e l'objectum è un termine di scolastica medievale, come il tedesco Gegenstand, è qualche cosa che mi si contrappone. Allora il nostro rapporto con gli oggetti è di valore d'uso, di valore di scambio. Noi l'oggetto tendiamo a usarlo senza preoccuparci di cosa è, di che forma è, di che tradizione è, oppure a venderlo e a comprarlo. Mentre invece la cosa, come res latina, che faccio un po' di filologia, res è la stessa radice di retor latino, e ha a che vedere con il decidere in assemblea quello che è meglio. Così come il tedesco ding e l'inglese thing, che vengono da un verbo alto germanico che appunto vuol dire riunirsi in assemblea. Ora allora, sintonizzarsi con le cose, nel mio modo di intendersi, non è avere rapporti con gli oggetti, nel senso di considerarli indifferenti oggetti di consumo o di commercio, ma è vedere in qualsiasi cosa gli strati di sentimenti, di capacità che si sono depositati ad esempio nel tempo. Una moneta, che so io, bizantina, che è passata tra tante mani, per uno che la guarda e la inserisce nel suo tempo, ha una serie di significati che si diramano fra di loro. Entrare in sintonia vuol dire capire quanto di umano si è depositato nelle cose inanimate, come queste cose, se ben guardate, ci parlano. E d'altra parte anche una bambina che compra una bambola al supermercato, inizialmente è un oggetto comprato e venduto, e poi si carica di significati affettivi, ma poi per chi studia queste cose anche di un fumetto degli anni 30, è espressione non soltanto di passare un po' di tempo, ma della storia com'era, dei motivi, degli atteggiamenti. Quindi una delle forme di felicità, se possiamo usare questo termine, è anche nel capire il mondo in cui noi ci muoviamo, non soltanto la sintonia con le persone, la capacità di riconoscerli, ma anche in questo mondo sapere, ad esempio, chi si interessa di architettura, quattro ha dei significati che sono diversi. Cioè, noi non dobbiamo essere come quel selvaggio del Borneo, raccontano gli antropologi, che portato a Singapore non capiva cos'erano le automobili e non gli davano senso, o i tram, e l'unica cosa che l'aveva colpito era un carretto che portava un casco di banane, perché per lui le banane e il carretto avevano senso, il resto non ha senso. Noi saremmo ciechi, muti e in fondo meno felici se non avessimo questo aspetto. Ecco, io vorrei dire a Salvatore Natoli che probabilmente anche in questa idea di sintonia, se noi mettiamo questo modello, come dire, armonicistico, la Levinas del volto dell'altro, che totalmente a me va benissimo dal punto di vista etico, mi chiedo se la felicità non abbia, se il vecchio Hobbes non abbia in parte ragione, non sia legata, o Machiavelli, non sia legata anche al conflitto. Cioè, se noi vediamo soltanto diciamo l'armonizzazione con gli altri, che naturalmente immagino tu la intenda come un punto d'arrivo, e non vediamo anche la gioia che può derivare dalla lotta, dal conflitto, che non è necessariamente la guerra, può essere anche la lotta per la giustizia, e può essere la lotta per una giustizia che contraddice quel detto attribuito a un grande saggio, Solone, che a me piace molto, che diceva: le leggi sono come le ragnatele, i forti le sfondano e i deboli ci restano impigliati. Se uno non è in grado, cioè la felicità per un politico, per un sindacalista, visto che si parla oggi di queste cose, ma per tutti noi è anche di un ostacolo vinto, di una difficoltà vinta. Non è detto che, appunto lo dicevi anche tu, che tutti gli ostacoli sono negativi. Cioè, ci vuole anche la vittoria, l'oltrepassamento. Se non c'è ostacolo, probabilmente non c'è nemmeno felicità. Se tutto ci fosse già dato, noi saremmo in un'atmosfera stagnante. È proprio perché si lotta, si confligge, che qualcosa si ha. L'ultima questione, felicità e tempo. Diceva giustamente Salvatore che la felicità è relativa ai contesti. I contesti possono essere anche temporali. Si può allargare il discorso e dire che la felicità appartiene alla storia e appartiene alle culture. Conan il Barbaro, probabilmente, più nemici ammazzava o torturava, sarebbe stato felice. San Francesco, più discepoli, tranquillamente faceva e portava a sé la parola di Dio, più era contento. Quindi la felicità è molto legata alle dimensioni culturali, per cui, ad esempio, come si diceva nella prima domanda, in Oriente la felicità è l'assenza di desideri, mentre noi siamo arrivati a una situazione in cui il desiderio, soprattutto quello acquisitivo, quindi ad esempio il consumismo, senza moralizzare nei suoi confronti, il desiderio di consumare è diventato fondamentale per molti, è questo desiderio di consumare diceva già Tocqueville negli anni 40 dell'Ottocento, che degli americani che avevano incominciato col consumismo allora, che erano come degli uccelli impagliati, che si riempivano di cose perché non erano capaci di avere una felicità maggiore data appunto dalle relazioni. E perché non avevano questa... Tocqueville era un aristocratico, ma è stato un grande democratico. Perché? Perché, dice, gli americani, essendo gente che ha dimenticato gli antenati, non sanno nemmeno dove sono le loro tombe, e non si preoccupa del futuro lontano, e già tanto se pensa ai propri figli, vive una vita rattrappita. E il termine individualismo, che è uno dei primi a usare, significa questo: non coincide con l'egoismo, coincide nell'avere una vita limitata in cui il passato e il futuro non contano, conta soltanto il presente e questa voracità nel consumare il presente. Ora, lasciamo perdere se la sua analisi sia corretta dal punto di vista storico, però ha visto un elemento essenziale, ha visto appunto il rapporto con le cose e con gli individui come un fatto di acquisizione in se stesso, il riempirsi come uccelli impagliati di materiali che non sono stati elaborati e di rapporti con le persone, per cui uno si dimentica dei discendenti e si dimentica degli antenati e vive una vita che è grama proprio per questo. E l'eguaglianza, diceva lui, che si riesce ad avere è quella di stare uno accanto all'altro, ma non uno insieme agli altri. Dunque, la prima domanda per essere soddisfatta esigerebbe di entrare in quelle culture, ma ho già detto prima, lo ha ripreso anche Remo, il modo di sentirsi felici, e questo conferma la dimensione storica e sociale dell'esperienza della felicità, il modo di sentirsi felici appartiene a universi storici definiti. Ecco, l'unico elemento, volendo ragionare un po' alla Wittgenstein, che si può ricavare è che per quanto le modalità del sentirsi felici si declinino, si formulano in modi diversi, appunto, si codificano in modi diversi, pare persistente l'idea che la felicità sta in questa dimensione espansivo-risolutiva. Questo è un elemento, diciamo, ricorrente. In qualsiasi esperienza della felicità si ha questo elan, questo slancio e questa risoluzione. Nella dinamica del desiderio, io ho già detto, e questo ci è un indicatore molto preciso, il desiderio, la sua, diciamo, realizzazione compiuta, ed è possibile che sia compiuta, e appunto non nel divorare l'oggetto, nell'attingerlo, ma nella capacità, e qui vale il discorso del mettersi in relazione, di fruirne il bene, dell'accanto. Allora la dimensione del desiderio, se non è modellata sulla misura dell'altro, qualsiasi altro esso sia, è disperante. Allora, per un lato, il desiderio come pulsione è inevitabile, perché se non c'è la spinta, ma quando la spinta incontra, in qualche modo, parlavo della pietà dell'Eusebeia, quando incontra non distrugge, ma preserva. Mettiamola così, per avere felicità l'oggetto del desiderio non deve essere divorato, ma deve essere preservato. Allora nell'essere preservato già noi abbiamo una dimensione relazionale. Questo non ci porta molto lontani da quella dinamica del desiderio più profonda che è quella dell'Oriente. No? Bisogna contenere quale desiderio? Il desiderio lacerante, il desiderio possessivo, il desiderio vorace. Ma il desiderio si compie, come ben diceva Remo, nel risolversi nella totalità, cioè nell'intero. Allora da questo punto di vista è il desiderio rapace che bisogna contenere. Anzi, diciamo che in quella posizione la dimensione dell'accanto è ancora più perfetta. È il totum. È l'insieme, è risolto. La controprova di questo, semplice. Proprio la filosofia del Nirvana, quando diventa pratica di vita, diventa la compassione. Cioè, è il desiderio, sì, ma in quale forma? La forma della compassione, il cuore. La pragmatica del buddismo è la compassione. Sono i monaci sequestuanti. È lo stare accanto. Non sono solo ritirati. La settuplice intuizione poi diventa, perché anche loro stanno nel mondo, la compassione del mondo e degli animali. Allora, diciamo che il desiderio è sempre desiderio d'altro, ma trova soddisfazione se non annulla l'altro che mantiene vivo il desiderio, togliendo al desiderio la sua perversione. E allora, qui riprendo delle cose che mettono in forma quanto ho detto. Allora la relazione, il rapporto con l'altro, il proprium dell'altro. Mi è stata fatta la domanda sulle cose e direi che Remo ha risposto come avrei risposto io. Cioè, incontrare una cosa non è l'oggetto, ma è il suo proprium, e il suo proprium che non sono solo le proprietà, le peculiarità, quello che Aristotele avrebbe detto, l'essenza. Ma è anche l'occorrenza di tutta la sua storia. Ecco ancora di nuovo l'eusebeia, la pietà nel senso profondo della parola, lasciar essere. E quindi guardare nell'oggetto per cercare di vedere, di capire, no? Quello che lo rende a quello che è. Una volta che si è capito, no? O si è approssimato all'oggetto per quel che è, si tratta di valorizzare e l'oggetto e la relazione che noi abbiamo con l'oggetto. E quindi capite bene che la parte conclusiva del mio discorso, che è la cura, nel senso dell'avere a cuore, è la dimensione propria, feconda, che noi abbiamo con gli oggetti. La predilezione. Il prediligere. E poi, soprattutto, una cosa importante che rompe la serialità, e qui si aprirebbe una lunga discussione, che l'oggetto è assoluta singolarità, qualsiasi tipo di oggetto. E Aristotele, in questo punto, solo in questo punto, vero grande antagonista di Platone, perché poi per il resto c'è molto platonismo in Aristotele, è che il singolare non è neanche nominabile. sostanza prima è ineffabile per la sua stessa precarietà. Se io dico bicchiere, ho già universalizzato. Aristotele dice todeti. È chiaro che per valorizzare un todeti bisogna inevitabilmente confinare e sconfinare con la sua ineffabilità. Prezioso proprio in ragione della sua pura precarietà. Avere un rapporto con le cose così non può essere altro che un rapporto di rispetto e di cura. Lo stare accanto è questo. Allora non c'è bisogno di andare a Dio per trovare l'ineffabile. L'ineffabile è l'aureola delle cose, di ogni cosa, se la si guarda in questa luce. Ho detto in modo diverso, ma sostanzialmente una riformulazione di quanto ha detto Remo prima. Sono d'accordo anche mettersi in sintonia. La formula che ho usato è questa. Non ho detto essere in sintonia, mettersi in sintonia. Il che vuol dire che la sintonia non è un'ovvietà. E suppone la resistenza. Quindi tutto il discorso che è stato fatto sul conflitto mi trova perfettamente d'accordo. Se io avessi sviluppato la formula mettersi in sintonia, avrei più o meno detto le stesse cose che ha detto Botei, perché la sintonia non è un dato spontaneo, altrimenti sarebbe abbastanza semplice. Diremmo che se fosse spontaneo la felicità sarebbe data e non da ricercare, non sarebbe una conquista, non dovremmo metterci mano, sarebbe spontanea. Ma questo stesso discorso fatto sulla cura, sull'attenzione, e c'è un intervallo, per cui inevitabilmente si può passare anche attraverso il conflitto. Anzi, qui aprirei, io ho parlato del discorso di Levinas, ma si potrebbe fare un discorso molto più ampio, che do come indicazione finale, perché il discorso ci porterebbe lontano, le relazioni tra gli uomini, non solo col e con il mondo, sono caratterizzati fondamentalmente come relazioni di aspettativa. In questo senso c'è l'eccedenza, no? Non parlo dell'eccedenza sentimentale, anche quella è importante, ma ogni realtà ci eccede. Perché quando io incontro qualcuno, mi domando chi è, da dove viene, cosa vuole da me. Posso avere una ritirata, un blocco di paura, posso avere una curiosità, posso accostarlo. Quindi le relazioni sono sempre relazioni di aspettativa. Nella formula dantesca, credea io che credesse che io credessi. E quindi nella dimensione mondo noi siamo sempre in rapporti con incognite. Il mondo costantemente ci eccede. E allora la felicità come virtù deve di volta in volta ridurre l'eccedenza senza poter mai cancellarla. Ma il fatto che non la può cancellare dice sempre che c'è un qualcosa da raggiungere. E da questo punto di vista questa è una condizione per essere felici. Ringraziamo nuovamente il professor Bodei, il professor Natoli per le loro relazioni, per gli interessanti stimoli che ci hanno lasciato. Nell'augurarvi una buona serata, ricordo che lunedì prossimo si tratterà il tema di felicità e psiche. Alle 17.45 ci sarà la proiezione, a seguire il commento del film Un giorno devi andare. Alle 21 la conferenza con Eugenio Borgna e Adriano Fabris. Una buona serata.